Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora si festeggia, lo dico chiaramente con un po' di ironia, perché gli unici festeggiamenti che prenderemo seriamente in considerazione quando vedremo saranno quelli quando vedremo calare sensibilmente la disoccupazione, aumentare la produzione industriale, il fatturato e tornare un po' a crescere anche i consumi, lo dico così evitiamo qualunque polemica, però sui mercati finanziari con una ripercussione importante anche sui nostri conti pubblici si festeggia il quantitative easing di Draghi e quindi il fatto che da lunedì la BCE stia comprando titoli di Stato dei vari paesi al ritmo di 60 miliardi al mese. L'Italia è coinvolta per un ammontare complessivo di 150, sono 120 della Banca d'Italia più 30 di pertinenza della Banca Centrale Europea. Insomma, si festeggia come? Da un lato soprattutto con lo spread, ossia quanto costa noi indebitarci rispetto a quanto non costi la Germania. È sceso a 84 punti base, siamo ai minimi dal settembre del 2008, quindi diciamo il mese prima dello tsunami ufficiale della crisi. La crisi era già iniziata, però chiaramente a livello storico e anche nell'immaginario la crisi detona e scoppia nel momento in cui crolla Lehman Brothers. Ecco, siamo tornati a livello di spread al settembre del 2008. Qualcuno ci sta chiedendo, ma è il livello più basso in assoluto? No, no, perché è vero che fino a che non c'è stato l'attacco speculativo all'euro, quindi da giugno 2011, dello spread non si occupava nessuno in sto paese. Sì, il Sole 24 Ore chiaramente, ma nessuno nei programmi così più comuni. Lo spread in realtà, pensate che nel 99 era sceso, tra il 98 e il 99 era andato anche in negativo dal governo D'Alema in quel momento in carica, ma anche nel D'Alema 2, quindi dal 99 al 2000, lo spread viaggiava a 27 punti, quindi praticamente c'era lo 0,2 di differenza tra quanto rendevano le nostre obbligazioni e quanto rendevano quelle tedesche. E ancora nel Berlusconi 2, dal giugno 2001 al marzo 2005, lo spread restò tra 47 punti e 3 punti, cioè la differenza dello 0,035, a 13 punti, a 23 punti. Ancora nel 2007, quindi l'anno prima dello scoppio della crisi, lo spread italiano era a 23 punti, quindi il rendimento dei nostri BTP a 10 anni era di uno 0,2% più alto, la differenza è il 0,2% rispetto a quelli tedeschi. Ancora nel 2009 era 83, infatti il livello di oggi ci riporta tra fine 2008 e inizio 2009. E poi invece nel 2011 la grande corsa, perché si passò da 170 a 557 punti di spread, fino a un record di 575 punti, poi arrivarono le dimissioni del governo Berlusconi. Tra l'altro 575 punti voleva dire che noi dovevamo pagare il 5,75% in più di interessi rispetto alla Germania. Allora, oggi è sceso appunto ai minimi, il Tesoro ha collocato 2 miliardi e mezzo di euro di BTP a 3 anni, quindi il BTP a 3 anni, un nuovo record come minimo storico per il rendimento, lo 0,15%, a febbraio rendeva lo 0,44%, quindi vuol dire che ci sono investitori che stanno comprando debito italiano a 3 anni e gli basta, si accontentano di un rendimento lordo dello 0,15% all'anno. Se fate il calcolo, levate quella che è la parte di tassazione, beh, presto fatto che il rendimento non ti protegge nemmeno dall'inflazione probabilmente, ma è comunque un investimento sicuro. E oggi il Tesoro ha collocato anche 3 miliardi di BTP a 7 anni, scadenza aprile del 2022, rendimento in calo anche qui allo 0,70%, è la metà di quanto non dovevamo offrire nel collocamento precedente, era l'1,23%. Poi il Tesoro ha collocato anche 1 miliardo e 750 milioni di BTP a 30 anni, e voi capite che scommettere, prestare i soldi all'Italia per farsi ridare fra 30 anni è una bella operazione di fiducia in generale. Ebbene, basta offrire l'1,86% lordo, vuol dire che ci sono investitori che hanno oggi comprato 1 miliardo e 750 milioni di debito italiano e gli è bastato avere garantito un rendimento per 30 anni da qui al 2046. Non so neanche dove saremo nel 2046, cosa trasmetteremo, come trasmetteremo e con che valuta ci confronteremo. Dicevo, è stato l'1,86% garantito all'anno lordo di rendimento, sono tutti livelli da record e di questo parleremo anche del Consiglio dei Ministri che inizia o dovrebbe iniziare fra poco meno di 20 minuti. I temi sono due, la RAI e la scuola, e parleremo di ambedue anche perché su questo ancora sapete ci sono molte dibattiti e polemiche a livello anche politico. Per quello che riguarda invece il resto del mercato, l'euro a quota 1,06, la borsa di Milano oggi è piatta come le altre borse europee, nel senso che perde lo 0,1, Parigi meno 0,2, Francoforte meno 0,1. È interessante notare che tutte le borse dei paesi coinvolti dalla misura di Draghi si stanno muovendo nello stesso modo. Ieri tutte in rialzo di oltre il 2, oggi una leggera correzione dello 0,1-0,2. Le borse pure europee, ma non dell'area euro, si muovono in maniera diversa. Penso soprattutto a Londra, più 0,70% in questo momento. Tra i titoli, Azimut più 5%, Pop Milano più 4%, Banco Popolare più 2,90%. E ancora Generali invece perde il 4,61%, oggi ha presentato i conti. ST Microelectronics perde il 3,40%, GTEC il 2,70%, UbiBanca l'1%, Enel l'1%, Finmeccanica anch'essa perde l'1%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. C'è qualcuno che non perde l'occasione per polemizzare, nessuno sta festeggiando, gli unici che festeggiano in questo momento sono i funzionari del Ministero del Tesoro e se vogliamo festeggia il paese Italia, perché visto che ogni anno paghiamo 70 miliardi di interessi sul debito, quest'anno ne pagheremo un po' di meno, un bel po' di meno anche. Non è tutto il debito che viene venduto, collocato quest'anno, magari il debito viene collocato in tranche, va a scadenza una tranche e se ne colloca un'altra, per cui attenzione, magari potessimo avere tutto il nostro debito allo 0,1 o allo 0,2 o allo quant'è che davamo all'1,4%, sarebbe una manna. In realtà abbiamo collocato debito anche negli anni passati, visto che abbiamo il poco invidiabile primato del secondo paese con più debito al mondo. Il nostro debito in termini assoluti vale circa 2.068 miliardi di euro, è da solo un terzo di tutto il debito europeo. Lo dico perché qualcuno dice ok, cosa festeggiamo? Beh, festeggiamo che paghiamo un po' meno per il nostro debito. Detto ciò, ho premesso che finché non vedremo dei numeri solidi e consolidati positivi nell'economia reale, che vuol dire produzione industriale, che vuol dire consumi, che vuol dire soprattutto occupazione e calo della disoccupazione, da festeggiare non ci sarà nulla di definitivo. le altre notizie, dicevo, al di là del CDM di cui ci occuperemo, la oggi uno dei membri del direttorio della Banca Centrale Europea, Benoît Cœuré, ha confermato che la Banca Centrale nei primi tre giorni, perché è partito lunedì, di quantitative easing, ha già comprato quasi 10 miliardi di euro di titoli di Stato, li compra tutti sul mercato secondario. La scadenza media dei titoli comprati è di 9 anni e questo è in linea con l'obiettivo di comprare 60 miliardi al mese. Nel frattempo la Banca Centrale Europea ha alzato di altri 600 milioni di euro la linea di credito d'emergenza alle banche greche. Francoforte rivedrà il tetto il prossimo 18 marzo, mentre il portavoce del Fondo Monetario Internazionale dice che il Fondo Monetario non si aspetta che la Grecia esca dall'euro. Tsipras oggi è tornato a parlare di manovra, lo ha fatto all'Ocse. Ha detto: ne abbiamo avuto abbastanza dell'austerità, enough is enough, quando è troppo, vorrebbe dire in inglese, ora vogliamo andare avanti a ritmo sostenuto con le misure strutturali. Nel frattempo la disoccupazione in Grecia è salita al 26,1%, ci sono 1.245.000 persone senza lavoro in Grecia, il 26% del totale, uno su 4. Per quello che ha a che fare con i dati, la disoccupazione colpisce di più le donne, 29%, poi sui giovani praticamente siamo a un dato disastroso, il 51% dei giovani greci risulta disoccupato. Faccio notare che la Spagna, che è il paese peggiore dopo la Grecia, viaggia su proporzioni, non dico della metà, ma di quasi. Noi stessi, che pur abbiamo una situazione difficile, abbiamo una disoccupazione al 24-25%, la Grecia al 51%, anzi al 51% in media. Se poi sei donna, sei giovane e sei greca, la disoccupazione è al 57%. Mi chiedete il Giappone non si fa, il Giappone non è nell'euro, uno, due, e il Giappone è vero che ha il debito più grande al mondo, ma ha una caratteristica: grandissima parte del debito giapponese è in mano agli stessi giapponesi, per cui è diverso. Noi invece storicamente, soprattutto nei momenti di difficoltà, abbiamo collocato il debito a investitori stranieri, perché non è che potessimo collocarlo solo ai risparmiatori italiani, per cui è molto diversa la situazione. Noi abbiamo, adesso non ho visto gli ultimi dati, ma storicamente avevamo quasi il 50% del debito in mano straniera. Il Giappone ha percentuali di gran lunga inferiori. Comunque, mentre un beneficio c'è, poi daremo anche il beneficio in miliardi per lo Stato italiano. Perché giustamente mi chiedete quant'è che risparmierà lo Stato italiano? Beh, guardate, un calo dei rendimenti dello 0,25% vale circa 3 miliardi. Attualmente le spese per interessi vengono quantificate in 74 miliardi contro i 76 del 2014, dove già erano calati, quindi sono almeno 2 miliardi di risparmio. Però la Banca d'Italia è più ottimista, stima che 100 punti in meno siano 3 miliardi in meno di risparmio. 3 miliardi in meno di pagamento di interessi, quindi 3 miliardi in più di risparmio. Che probabilmente nella legge finanziaria, come abbiamo già detto, andranno a coprire il buco che probabilmente si genererà da stime troppo ottimistiche sulla lotta all'evasione e stime troppo ottimistiche sulla spending review, e quindi il risparmio della spesa della pubblica amministrazione, perché sono cifre un po' scritte sull'acqua, 7 miliardi e mezzo, non si capisce come, e così come il contrasto all'evasione, per cui questi 3 miliardi che risparmieremo andremo a inserirli lì. Come in alcune isole del Pacifico, dove era finita la seconda guerra mondiale, ma restavano gli ultimi giapponesi nella giungla a combattere, c'è chi non si rassegna al fatto che la misura di Draghi stia creando un beneficio per tutti i paesi dell'area euro. anche per la Germania, e mi riferisco al mitico Weidmann, che è il presidente della Bundesbank, della banca centrale tedesca, ma lui in realtà forse pensa di essere il presidente della BCE, si deve rassegnare, è Mario Draghi. Perché? Perché non ce la fa a ammettere che forse Draghi ha fatto una mossa giusta, che forse sta facendo respirare almeno i tassi di interesse, almeno l'euro, almeno le imprese che esportano, almeno i mutui, visto che i nuovi mutui verranno accesi con tassi più bassi. No, è troppo presto per valutare gli effetti. Ho capito, Weidmann, ma almeno puoi dire che per ora comunque gli effetti ci sono. No, non va bene. Troppo presto per valutare gli effetti del QE di Draghi, e attenzione, con il quantitative easing alcuni paesi membri potrebbero avere meno pressione per continuare sulla strada del rigore e sulla strada delle riforme, perché potrebbero abituarsi a condizioni di finanziamento troppo convenienti. Allora io leggo una domanda, Weidmann: siccome la Germania ha condizioni di finanziamento, come le chiama lei, cioè tassi di interesse sui bot e sui BTP in negativo, molto convenienti, questo vuol dire che in Germania, siccome da 2-3 anni avete i tassi a zero, avete praticamente quello che stiamo vivendo noi, avete smesso di usare il rigore e di fare le riforme? Chiedo, perché se vale per tutti, o lei mi dice che c'è una differenza tra paesi del sud nel fare le riforme in come leggono lo spread, allora qui siamo proprio alla razza ariana, oppure lei sta dicendo una grandissima cavolata, perché se c'è un paese che da 2-3 anni ha i tassi di interesse vicini allo zero negativi sui titoli di Stato è la Germania, allora sì, io prendo la lettera a quello che lei scrive. Beh, vuol dire che la Germania ha avuto un buon pretesto per non fare riforme e non mettere pressione sul rigore. Non è vero. E siccome non è vero per la Germania, non sarà vero neanche per gli altri paesi, perché qua primi della classe, no. E poi Weidmann, che oggi parlava al vertice della conferenza annuale della Bundesbank, della banca centrale, ha detto: attenzione, ha reagito alle critiche di Varoufakis, che aveva detto che la banca centrale europea persegue una politica che leva l'aria per respirare, e Weidmann ha detto: è compito dei governi e dei parlamenti decidere se coprire il fabbisogno finanziario, non di Francoforte, non spetta alla BCE finanziare Atene. Ma poi si è spinto oltre, perché ha detto, ha bacchettato anche la Francia, perché ha detto: attenzione, dunque, ha espresso preoccupazione rilevando la tendenza francese a non mantenere i parametri. Questa è una tendenza che Parigi ha dal suo ingresso nell'area euro. Il presidente della Banca Centrale Tedesca ha anche sottolineato che i grandi paesi dell'area euro dovrebbero dare il buon esempio. Guardate che sto Weidmann, l'abbiamo anche incontrato qui al Sole 24 Ore, è un bel personaggio, perché io non ricordo Christian Noyer, che è il governatore della Banca di Francia, criticare la Germania che non sta rispettando un accordo fondamentale nei trattati, perché si dice che tu devi tenere il deficit sotto il 3%, ma non puoi risparmiare troppo, devi anche spendere. La Germania non sta facendo niente sul fronte degli investimenti, ma Noyer non si permette di dire che la Germania non sta rispettando gli accordi. Ora, perché il presidente della Bundesbank deve bacchettare la Francia? In base a quale titolo? Pensi alle sue banche, pensi alle casse di risparmio in mano alle regioni e ai land tedeschi, che hanno coperto buchi fantastici, ma pensi ai casi suoi. Anche perché, caro Weidmann, allora, sei del 68, cioè hai la mia età, ti posso dire tu, ormai ne parliamo di te così spesso che... Quindi non è che hai la mentalità vecchia del vecchio rigore, dovresti avere una mentalità. Poi è vero che ci sono persone giovani fuori e vecchie dentro, è anche l'opposto. Ha studiato all'Università di Marsiglia, a Parigi e a Bonn, quindi conosci bene la Francia del Sud e Parigi. È sposato con un'italiana, ha una passione per i sarti napoletani e le cravatte di Salvatore Sanseverino. Voglio dire, sta rompendo le scatole da 2 anni senza mai parlare dei casi suoi. Io vorrei una dichiarazione di Weidmann sull'andamento delle casse di risparmio territoriali tedesche, su quanto hanno speso per salvarle, come hanno coperto i buchi, come erano amministrate, come stanno andando le esposizioni verso la banca austriaca di cui parlavamo ieri al Peade. Tutto questo, parli di questo, poi della Francia parlerà Angela Merkel quando incontra Hollande in un mondo normale. Vabbè, era un po' che non me la prendevo con la Germania, oggi ho recuperato. Sì. Ah, ecco, mi arriva un'agenzia fatta ad hoc. Le banche tedesche sono le più esposte in Europa verso il fallimento della banca austriaca a cui facevo riferimento, la Bad Bank di Ipo Alpe Adria, che si chiama ETA. Scrive l'agenzia di rating Fitch: le perdite saranno probabilmente importanti per le banche tedesche, quasi 3 miliardi, però Weidmann di questo si dimentica, va bene. Allora, sentiamo il punto di vista, non su Weidmann, ma su quello che sta capitando sui mercati finanziari. E quindi il primo tema di questa puntata, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, effetto Draghi da un lato, ma soprattutto prospettive sui rendimenti obbligazionari, e la domanda che fanno in molti: ma chi compra a questi livelli, a questi tassi di interesse? Dottor Alberto Gallo, che è responsabile della ricerca macrocredit per RBS, buonasera. Buonasera. Non le chiederò un commento su Weidmann, se la sento preoccupato su questo, ma è una mia personale battaglia. Allora, intanto, secondo le vostre stime, quanto potrebbe proseguire, o magari ci si è già esaurito, il calo dei rendimenti su titoli di Stato, non solo italiani, ci mancherebbe, in tutta Europa? E poi la domanda che ci fanno in molti: ma chi sta comprando, secondo lei, a questi rendimenti? Proseguirà ancora un po' la discesa del rendimento. Sul BTP a 10 anni adesso abbiamo 1,12% e noi lo vediamo scendere sotto l'1%. Per il Bund a 10 anni abbiamo 24 punti base, quindi 0,24%, noi lo vediamo ancora più verso lo zero, però si sta un po' raschiando il barile. I rendimenti non sono rendimenti per un investimento a lungo termine. Chi sta comprando? Innanzitutto la BCE. La BCE sta comprando più delle emissioni. Perché? Perché i governi non stanno spendendo, come avevi detto prima, e quindi siccome i governi non spendono, non emettono titoli di Stato, e la BCE ne compra di più di quelli che ce ne sono emessi sul mercato. Quindi c'è una netta emissione sul mercato, sul mercato secondario. La BCE li compra sul mercato secondario, però ne sta comprando di più per ogni mese di quelli che vengono emessi di nuovi. Quindi in effetti i titoli di Stato sono diventati un bene scarso. E se il quantitative easing, se gli acquisti continueranno oltre alla prima data finale del settembre 2016, la BCE ne comprerà ancora di più, e piano piano il mercato di titoli di Stato piano piano in pratica si sta restringendo. Più ne compra e più si restringe, e per cui gli investitori molto spesso li mantengono nei loro portafogli, perché sanno che la BCE sarà ancora più disperata a comprarne di più. Tutto questo dura finché i governi non iniziano a spendere. Finora la Germania, per esempio, ha dato pochi segni di flessibilità, ha soltanto aumentato il proprio piano di spesa da 10 miliardi a 15 miliardi di euro, che si tratta in effetti di 2 o 3 autostrade o un aeroporto e mezzo. Quindi non è un piano di spesa europeo di grande portata. Consideriamo poi che questi governi adesso in effetti vengono pagati per prendere dei soldi a prestito. È comoda la situazione tedesca. Cioè, quando tu hai un rendimento negativo sui titoli di Stato, vuol dire che hai qualcuno che pur di comprare il tuo debito è disposto a perderci. Questo vuol dire rendimento negativo. Vuol dire che ci sono investitori che prestano soldi alla Germania sapendo che a scadenza ne avranno di meno, però evidentemente funziona come bene rifugio, come, come porto per i soldi sicuri. E quindi è chiaro che il governo tedesco, che ne dica Weidmann, ha dei benefici enormi. Ecco perché deve stare zitto il presidente della Bundesbank. Lo so benissimo che non mi sta ascoltando, lo dico ad alcuni ascoltatori, però non sapete che gioia poterglielo dire. Allora, vada avanti Gallo. Quindi, prego. Diciamo che per il momento gli acquisti della BCE stanno avendo un forte impatto sui mercati obbligazionari, anche sulle valute. Con l'euro che si è deprezzato sta aumentando le esportazioni, però in realtà per avere della crescita, per avere una ripresa che duri, non basta soltanto il deprezzamento della valuta, ci vogliono investimenti in aziende, non soltanto in obbligazioni, cioè sull'economia reale. E per far sì che questo succeda, a parte le riforme, ci vuole in realtà un programma fiscale, altrimenti la ripresa è tutta affidata alla BCE, è tutta affidata a BCE. Guardi, su questo non abbiamo dubbi, cioè programma fiscale, esatto. In inglese non vuol dire quello delle tasse, ma vuol dire un programma anche che ti permette di tenere i conti pubblici, per carità, di non farli esplodere, ma di poter fare degli investimenti. Intanto lei fa bene a ricordare che la Germania è un obbligo del patto di stabilità, anche quello di non avere troppi squilibri interni nell'area euro, cioè non puoi avere paesi che devono tagliare tutto e paesi che potrebbero spendere che non spendono, perché non funziona nessuna casa così. E alla Germania si dice da tempo devi spendere di più e loro tirano fuori 5 miliardi su 10 per spendere in più. Allora, lei sta dicendo, se non riparte anche una politica di investimenti, che è il timore di molti ascoltatori, ok, grande beneficio per il debito, grande beneficio per chi fa un mutuo, grande beneficio per chi esporta, ma l'economia non riparte. Esatto, perché alla fine gli investitori stanno comprando i buoni del tesoro, ma non comprano aziende italiane, non investono nell'economia reale, non ancora. Potrebbe succedere, è successo in Irlanda, è successo in Spagna, che sono dei paesi con le riforme si sono avviate prima. Adesso l'Italia le riforme le sta facendo, oggi è stata approvata la riforma delle popolari, per esempio, ce ne sono altre, vabbè, il Jobs Act, però bisogna che ci sia uno stimolo fiscale da parte dell'Unione Europea. E il piano Juncker per gli investimenti ancora non è chiaro, c'è questo annuncio di un accordo sul piano Juncker, ma non si capisce come si arrivi a 315 miliardi, il vero investimento è di 21 e poi c'è una leva Perché il piano Juncker è bello, perché ma ce l'abbiamo ancora Cenerentola, una volta la usavamo, perché magica bula, mitica bula, perché con la bacchetta magica l'Unione Europea mette, quindi non è che li mette, li leva da altre parti, non sono soldi nuovi, mette tra i 15 e i 20 miliardi, però ma si aspetta che questo sviluppi investimenti privati per un totale di 300, come io non l'ho ancora capito. Ho visto ieri il ministro Padoan molto entusiasta, ma prendiamo atto. ...17:41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, c'è chi dice, mi chiede se ho avuto una delusione di amore con una tedesca. No, onestamente no, è proprio un ragionamento economico, no, che ricordi perlomeno. E poi diceva, perché se lei è così bravo, perché non va lei alla Bundesbank o al Neurogruppo? Neurogruppo non è male. E invece fa il DJ dell'economia. Guardi, sa che DJ dell'economia mi piace moltissimo. Gallo, come mai continua lei ci ha spiegato perché c'è una richiesta di titoli di Stato, perché la BCE ne sta comprando tanti sul secondario, quindi sono un bene raro, ma quindi raro, relativamente raro, ma questa tendenza continuerà, e soprattutto voi vedete dei flussi soprattutto sugli istituzionali, non sui privati? Su tutti e due, ma soprattutto istituzionali, perché ci sono investitori istituzionali che non possono comprare altro, ed è questo il vero problema che abbiamo adesso. I fondi pensione? Anche, soprattutto i fondi pensione, per esempio i fondi pensione possono solo comprare obbligazioni di rating alto, quindi soltanto BTP, non possono andare nelle alternative. Questo però crea dei problemi, perché la BCE sta spremendo il limone delle obbligazioni di alta qualità, sperando che poi gli investitori mettano capitale nelle piccole e medie imprese, ma in Europa manca l'anello di collegamento tra i mercati obbligazionari e le piccole e medie imprese. E qual è? Che potrebbero essere normalmente le banche, ma le banche ancora non hanno capitale, quindi le banche continuano a mantenere le obbligazioni invece di dare prestiti. Alternativamente ci possono essere dei fondi o altri entità che prestano alle piccole e medie imprese assicurazioni, fondi di investimento o le cartolarizzazioni, che vuol dire mettere i prestiti delle piccole e medie imprese in dei pacchetti più grandi, oppure i mini bond che sono popolari in Italia ma ancora molto piccoli. Quindi questo è uno sforzo che l'Unione Europea deve fare, di sviluppare mercati di capitale, altrimenti gli acquisti della BCE continuano a spremere un limone, ma non c'è nient'altro da spremere. Da spremere, o comunque nient'altro che gli investitori possano comprare. Allora, mi piace molto questo suo punto, perché a mio avviso qui c'è il vero, come dicono gli inglesi, moral hazard, cioè il rischio che tu ti stai prendendo nell'operazione. È una scommessa quella di Draghi, che dice: io levo il più possibile i vantaggi alle banche, ai fondi, per comprarsi i titoli di Stato, perché ormai glieli faccio rendere pochissimo, e a questo punto non dico che ti costringo, ma ti invoglio, ti spingo a prestare i soldi e investire i tuoi soldi in altro modo, quindi tipicamente nell'economia reale. Gallo, intanto ringrazio per averci aggiunto in collegamento il professor Franco Bruni, che insegna Grazie. Economia internazionale all'Università Bocconi di Milano. Buonasera, professore. Buonasera. Dottor Gallo, secondo lei quanto alto è questo rischio e cosa potrebbe capitare nella peggiore delle ipotesi? E cioè, se, per carità, i tassi restano ai minimi storici, l'euro resta basso, ma non solo i fondi pensione che devono comprare per statuto rendimenti alti, ma anche le banche dicono: no, noi ci teniamo le nostre obbligazioni, piuttosto ne compriamo a rendimenti bassissimi, ma io soldi non li voglio prestare all'economia reale, o perché non sono in grado di valutare le aziende, o perché non voglio prendere i miei rischi, o perché Basilea 2 non me lo rende conveniente, per tanti motivi. Qual è il rischio che corriamo? Nella peggiore delle ipotesi, gli acquisti della BCE potrebbero finire per essere un buco nell'acqua, però questo per fortuna adesso non sta ancora succedendo. Cosa abbiamo bisogno per un'accelerazione nella ripresa? Mi scusi Gallo, un buco nell'acqua, sì, però non fa male, un buco nell'acqua è uno sparo vuoto, ma c'è il rischio che ci facciamo male o no? Diciamo che no, però c'è il rischio che se gli acquisti della BCE non sono poi seguiti da uno stimolo fiscale e da l'ampliamento degli strumenti di investimento, così che poi gli investimenti vadano dalle obbligazioni all'economia reale, se non ci sono queste due cose, la BCE non può farne un altro di piano di acquisti, cioè può continuare questo, però l'aspettativa degli investitori adesso è in eccitazione, e quindi bisogna che queste misure i politici europei le facciano ora, nei prossimi 2-3 mesi. Anche raggiungere una soluzione per la Grecia, che la Grecia ha il PIL equivalente a quello di una città europea, quindi non è un problema di scala enorme. Risolvere la Grecia permette agli investimenti di arrivare in Europa senza avere dei grandi dubbi su come la struttura dell'Europa possa essere. Un imprenditore non investe in Europa, in Italia, in Spagna, in Portogallo, se la Grecia sta per uscire. Quindi risolvere queste cose politiche è molto importante, altrimenti la BCE, che ha usato il suo colpo più forte, poi questo colpo, diciamo, viene questo è il rischio, è quando tu usi l'ultima cartuccia o quasi, il rischio ce l'hai. Professor Bruni, poi le faccio altre domande dopo il traffico, ma è d'accordo con quanto diceva adesso il dottor Gallo, cioè l'Europa, l'area euro ha una finestra fondamentale, preziosissima, per partire anche con degli investimenti, per far ripartire l'economia, se no il tiro di Draghi è un tiro a vuoto, sebbene che vada. Sono perfettamente d'accordo parola per parola con quello che ho sentito nell'ultimo, mi sembra importantissimo in particolare il discorso degli investimenti nelle imprese e in capitale di rischio, cioè qui bisognerebbe anche studiare qualche incentivo, probabilmente è quello il discorso, perché per far sì che la gente abbia convenienza a comprare, per esempio, i fondi di investimento appropriati, che potrebbero meritare, se sono fatti bene, alcune forme di incentivo. Quello che aggiungerei è che secondo me il rischio di farsi male c'è, lei ha detto il buco nell'acqua non fa male. Effettivamente qui il paragone rischia di, perché se questa cosa non va a buon fine, perché il tempo che Draghi compra non viene usato dai governi e dall'Europa, perché sono anche provvedimenti che deve prendere Bruxelles per fare le cose che importano per il rilancio, c'è una perdita di credibilità allucinante dalla Banca Centrale. Da quel momento in poi non possiamo neanche contare più su quella, cioè non solo, ma ci sarà un disorientamento molto molto pericoloso anche per la tenuta dell'unità europea in generale. Cioè, quindi veramente sarebbe bruttissimo se questo testo. Sì, ecco, io leggendo, come raccontavo prima, le dichiarazioni oggi del presidente della Bundesbank Weidmann all'assemblea annuale della Bundesbank, penso che lì ancora non abbiano, cioè Weidmann, se va bene, sta rosicando, come dicono a Roma. Dice che ancora gli effetti presto per valutarli. Certo che gli effetti non vi saranno se poi l'Europa non fa nulla. Questo, sono d'accordo con lei che l'immagine poi che si dà fuori è se nemmeno Draghi riesce a convincere i paesi europei che la strada del solo rigore non va bene, e se nemmeno lo strumento, il bazooka che ti mette a disposizione, come l'hanno chiamato alcuni, funziona, beh, a questo punto l'Europa potrebbe essere percepita come un malato incurabile, no? nella gestione, nella governance, Bruni. I tedeschi però hanno dei problemi molto, molto particolari, non solo loro, ma insomma sono problemi che i tedeschi hanno più degli altri, cioè ci sono le società di assicurazione, soprattutto i fondi pensione, che con questi tassi bassissimi ormai da tanto tempo sono nei guai, perché non riescono a garantire i rendimenti, e questo esercita una forte pressione, diciamo di tipo anche culturale, se vogliamo, sulla banca centrale, che si sente di dover rappresentare questi interessi, e quindi da tanto tempo polemica contro una politica che Mi dispiace per loro, però finché i rendimenti negativi c'era la Germania andavano bene, perché perché adesso torno su, perché adesso Weidmann che dice è pericoloso, questi rendimenti così bassi del titolo di Stato possono spingere i governi a non andare avanti sulle riforme a rigore. Ma voi li avete avuti per 3 anni i tassi a zero o negativi, e nessuno si è permesso di dire che la Germania in questo modo andava a scialare. Lì andavano bene perché comunque i fondi pensione potevano investire su titoli di Stato francesi, olandesi, austriaci e se vuoi anche italiani, che rendevano di buona qualità. Mentre parlavamo, Commerzbank, la principale banca tedesca, una delle principali, ha patteggiato 1.450 milioni per chiudere le sanzioni sugli scandali contabili del Giappone. Le ha pagati però in USA, era una vicenda americana, 1.450 milioni. Grazie dottor Gallo. Professor Bruni, resti con noi. Sweat. 17:53. Dunque, professor Bruni, lei adesso ha un compito molto delicato e molto importante: spiegare agli ascoltatori che continuano giustamente, oltre che chiedere ma chi sta comprando a questi tassi, a questi rendimenti, e ben l'ha spiegato i responsabili di RBS, stanno comprando anche le banche e i fondi pensione, o i fondi pensione, perché Draghi sta rastrellando sul mercato secondario le obbligazioni già esistenti. Perché questa è un'operazione? Quando potremmo dire che questa operazione di Draghi è servita a noi cittadini, quindi l'economia reale? Torniamo al tema di qua, cosa dovrà capitare perché questa operazione permetta realmente di liberare tutta la sua efficacia? Beh, bisogna aspettare che, diciamo, gli effetti meccanici e gli effetti psicologici, diciamo, di questo provvedimento, perché ci sono anche effetti psicologici. La gente lo voleva questo provvedimento ed era convinta che fosse opportuno e funzionasse, e che andava fatto, e che anzi andasse fatto da diverso tempo. Io non sono mai stato convinto come la media delle persone, ma la media delle persone era convinta. Quindi nel complesso il fatto che sia avvenuto e che stia andando anche così forte in questo momento darà un certo entusiasmo a imprese, consumatori, investitori, gli stessi governi che si trovano ad avere un minor conto interessi da pagare, il nostro in particolare, che essendo molto indebitato risparmierà parecchio di interessi. E quindi insieme i governi, le imprese, le famiglie speriamo spendano di più e spendano bene, naturalmente, perché se poi spendono male andiamo bene per un po', ma poi andiamo male. E quindi questo è quello che dobbiamo aspettare. Si sposta da Francoforte, dalla Banca Centrale Europea. Ora il boccino è tutto esclusivamente della politica, se la sanno fare, se no a quel punto viene da dire che ha ragione chi critica questa Europa. E l'idea di Europa, se sanno fare politica, i leader europei a questo punto hanno in mano il boccino per dire: bene, grazie a Draghi c'è questa situazione, c'è la liquidità, facciamo degli investimenti, troviamo degli investimenti che non siano la fuffa di Juncker, finché Juncker non ci spiega come come da 15 miliardi si trasformano in 300 miliardi di investimenti. Grazie anche al professor Franco Bruni. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa adesso, dicevo, giornata poco mossa, meno 0,11 Milano, meno 0,20 Parigi, invariata Francoforte, Londra più 0,60, ma appunto non è coinvolta dalla Banca Centrale Europea. Come sempre, collegamento con Radio Cori, Sole 24 Ore, Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Azimut, i conti, festeggia la borsa, più 5%. Sì, diciamo che oggi praticamente tutto Azimut è risparmio gestito, lo dico per chi non lo sapesse. Prego. Certo. Oggi i temi principali della giornata sono proprio le trimestrali e i risultati del 2014 di molte e big. La migliore è stata appunto Azimut, e anche qui infatti è il risultato dei conti che la borsa ha apprezzato, conti che sono in calo soprattutto dovuti ad accantonamenti straordinari, mentre su base normalizzata l'utile sarebbe in aumento. La società ha annunciato anche il dividendo, apprezzato anche questo dal mercato, e quindi gli investitori hanno premiato il titolo con un rialzo di un soffio inferiore al 5%. Ancora bene le banche in generale, le popolari, Pop Milano più 4,20, Banco Popolare più 2,60, Pop Emilia Romagna più 1,40. Ora sì, c'è l'effetto Draghi, ma qui sono soprattutto le popolari. Sì, diciamo che prego. Le banche in generale, sì, effetto Draghi e anche effetto stress test americani, che stanno sostenendo anche i titoli delle big americane a Wall Street, e a Milano continuano a essere le migliori all'interno delle banche proprio le popolari. È arrivato oggi l'approvazione alla Camera del decreto che impone la trasformazione in SPA alle banche popolari con più di 8 miliardi di attivi entro 18 mesi, e quindi diciamo che il mercato è tornato a puntare sul possibile, sul probabile riassetto del settore una volta approvata definitivamente la riforma. Ancora tra i titoli, le generali oggi hanno diffuso i conti, l'utile è calato a 1 miliardo e 700 milioni, però il dividendo è aumentato, cioè l'utile distribuito agli azionisti è salito del 33% a 60 centesimi di euro contro i 45 centesimi del 2013. Sì, esattamente, i conti sono fondamentalmente positivi secondo la società, che ha annunciato di aver raggiunto gli obiettivi del piano con un anno in anticipo, ma il mercato, come spesso accade, si concentra sull'andamento rispetto alle previsioni, e gli utili e i ricavi 2014 sono stati inferiori a quella che era la media delle previsioni del mercato. Quindi, nonostante l'aumento del dividendo che ricordavi tu, la borsa oggi ha punito il titolo con un calo del 4,4%, anche perché le azioni si trovavano ai massimi da circa 5 anni sopra quota 19 euro, quindi c'è anche qualche presa di beneficio. Ancora tra i titoli, ST Microelectronics oggi debole, meno 3,41%, e G-Tech di nuovo in calo, meno 2,90%. Sì, su ST qui è una questione che riguarda Intel, il colosso americano del settore, che ha annunciato un taglio delle stime di ricavi per il primo trimestre 2015. Intel a Wall Street quindi perde il 4,2% in questo momento, e ha penalizzato tutti i principali titoli della tecnologia del settore dei microprocessori anche in Europa. Calano infatti sia Infineon a Francoforte che ASML ad Amsterdam. ST Microelectronics ha perso il 3,41%. Ancora tra i titoli più sottili, SET Pagine Gialle vola, è vero che vale pochissimo, 0,0041, più 20%, i Grandi Viaggi più 10,30, Bialetti più 9,96, Risanamento più 7%, Moleskine più 6,40. Fronte opposto, Wallspace meno 9% e Rizzoli Corriere della Sera perde 7,30. Rizzoli da un lato e Seat dall'altro. Sì, anche in questo caso si tratta sempre di dati di bilancio. Per RCS si tratta anche di realizzi, visto che il titolo di recente aveva guadagnato oltre il 50% anche in vista di possibile della vendita dei libri, che per cui sono state annunciate trattative con la Mondadori, quindi arrivati oggi conti, nonostante il dimezzamento della perdita, il titolo ha perso il 7%. È andata invece molto bene Seat, come dicevi tu, qui i conti si tratta di un i conti negativi da quel punto di vista dell'ultima riga di bilancio. La società ha però confermato i target 2015 e inoltre ha previsto un ritorno all'utile nel 2018, quindi dopo il lungo riassetto del gruppo, gli investitori cercano di vedere positivo e provano a credere sul futuro della società, che oggi appunto è salita di oltre il 20%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso ci spostiamo al Consiglio dei Ministri. Due capitoli in discussione: il disegno di legge per la riforma della scuola, dove da quello che si è capito gli scatti di stipendio degli insegnanti resterebbero legati all'anzianità, e dovrebbero essere confermate le assunzioni dei docenti dalle graduatorie fino a esaurimento. Oggi ci sono stati 40 cortei in tutto il paese con circa 50.000 studenti in piazza. Il governo sembra orientato ad assumere circa 100.000 tra iscritti alle graduatorie a esaurimento e vincitori non ancora assunti del vecchio concorso Profumo, non più anche gli idonei. Il concorso fu del 2012, si chiama Profumo non per l'ex, non per l'attuale presidente Montepaschi, ma per l'ex ministro. E poi si aggiungeranno altri tra i 10.000 e 15.000 supplenti dagli elenchi di istituto. Se il disegno di legge non dovesse correre abbastanza velocemente in Parlamento, scatterebbe il piano B, ossia programmare l'assunzione di quest'anno sulla base del semplice turnover e rimandare al 2016 la maxi stabilizzazione. L'altro fronte Rai, Vincenzo Miglietta, il nostro Vincenzo Miglietta sta seguendo il Consiglio dei Ministri. Vincenzo, a che punto siamo? Buonasera. Sì, buonasera Sebastiano, buonasera ai nostri ascoltatori. Diciamo subito che il Consiglio dei Ministri doveva iniziare alle 17.30, è iniziato invece 5 minuti fa, 18.10. A che punto siamo? Siamo all'inizio. Come indica la nota della Presidenza del Consiglio, quello che abbiamo capito al momento è che non ci dovrebbero essere problemi, almeno oggi, dopo settimane di slittamenti per la buona scuola, il piano del governo, mentre per quanto riguarda la RAI dovrebbe essere una prima presa di contatto da parte di tutto il Consiglio dei Ministri di questa riforma, di cui oggi c'erano ampie anticipazioni sui vari quotidiani, ed è una riforma molto contestata almeno da diverse forze politiche, quindi molto difficilmente si potrà arrivare oggi, Sebastiano, ad un'approvazione. La nuova RAI invece? Ecco, per quanto riguarda quindi la nuova RAI, l'architrave su cui si basa questa riforma targata Renzi prevede di base un nuovo consiglio di amministrazione composto da 7 membri, vi sarebbe un uomo forte, un capo azienda, quindi a Viale Mazzini, e tra questi 7 consiglieri vi sarebbe uno consigliere eletto dai dipendenti, e questo è un po' il primo punto fondamentale. Non è un dettaglio da poco la cosiddetta governance, perché attualmente la RAI ha un direttore generale che ha un potere di proposta e non di voto, mentre l'amministratore delegato avrebbe, come in qualunque azienda, più potere del direttore generale sia in materia editoriale che economica. Comunque, grazie al nostro Vincenzo Miglietta, che ci ha aggiornato per quello che poteva, visto che il ritardo ha fatto iniziare il Consiglio dei Ministri 5 minuti fa. La RAI con quello che... La RAI, per favore, mi state entrando in cuffia, grazie. La RAI. Allora, al di là di quella che sarà la formulazione definitiva, e già Vincenzo Miglietta ricordava il cambio di governance, oggi Di Rai ha parlato ospite di Giovanni Minoli a Radio 24, a Mix 24, questa mattina Andrea Guerra, che è l'ex amministratore delegato di Luxottica, ma attualmente il consigliere strategico del premier Matteo Renzi. Ha escluso di poter fare l'amministratore delegato di un'azienda pubblica e poi ha parlato anche di Rai Way. Sentiamo questo passaggio. Si è fatto il suo nome come possibile amministratore delegato, le piacerebbe? No. Perché? Non è il mio mestiere. Fare l'amministratore delegato mi pare di sì. No, non è il mio mestiere fare l'amministratore delegato di un'azienda pubblica. Restiamo alla privatizzazione di Rai Way, 51% dice il governo, l'abbiamo sentito, per restare pubblico. All'Enel basta il 30%, perché? L'ha detto, sappiamo che lì ci sono 20 anni di storia particolare. Insomma, se non fossero di Berlusconi e di Tower forse sarebbe diverso. L'ha detto lei. L'ho detto io, va bene, senta. Quindi adesso che il mercato mette a nudo con chiarezza quello che il centro-sinistra non ha fatto quando governava, cioè il conflitto di interessi. Ma soprattutto nel momento in cui c'è chi torna a fare il proprio mestiere di imprenditore, è evidente che questo viene più alla luce. Mamma mia, com'è diventato diplomatico Andrea Guerra, che ha risposto al nostro Giovanni Minoli anche sulla vicenda Telecom Italia. Ve la faccio ascoltare perché comunque la partita, al di là della governance della RAI, riguarda anche tutto il sistema delle telecomunicazioni italiane. Ha detto Guerra, spero che la banda, il piano sulla banda larga, scusatemi, decolli nelle prossime 4-8 settimane, perché altrimenti non ce la si farà. Ma realizzata da chi questa banda larga? Telecom? Stiamo a vedere. Io spero di nuovo che l'incumbent, che il leader, Telecom Italia, sia assolutamente, come dire, il player protagonista in questa cosa. È possibile? Lo andiamo a capire. Senta, ma quindi Telecom con? Io penso che sia importante avere, è il leader, è italiana. Entro quando ci sarà? O questa cosa riesce a decollare nei prossimi 4-8 settimane oppure non ce la si fa. E quindi il governo insiste, deve essere anche e soprattutto Telecom Italia, non dico l'unico, ma il principale soggetto nel piano banda larga di cui molto abbiamo parlato. Marco Mele, la firma del Sole 24 Ore quando parliamo di Rai e di media. Buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, dai, un pronostico, visto che il Consiglio dei Ministri ha un ritardo di quasi un'ora. Sì, al di là, non ti chiederò di della sì. Sì, purtroppo per chi segue la RAI da fuori, un ritardo di un'ora, non so quando finirà. Però, vabbè, allora, sì. Arriverà oggi la nuova governance e quindi un nuovo amministratore delegato, dopodiché partirà la gara al nome. In corsa abbiamo visto Campo dall'Orto, ma non solo, c'è anche l'Andreatta, Novari, ho visto un po' di tutto in giro come nomi, ma insomma arriverà oggi la nuova governance della RAI con il nuovo CDA con 7 membri, 3 nominati dal Consiglio dei Ministri. Vai Marco. È un terno all'otto, io penso che oggi approvino delle linee guida che vanno in quella direzione, ovviamente, cioè linee guida che dicono RAI S.p.A. Quindi sottratta la pubblica amministrazione alle due sentenze della Corte di Cassazione che oggi costringono la RAI a fare una gara europea pure se deve comprare la carta igienica o una videocamera. RAI S.p.A. codice civile, amministratore delegato espresso dall'azionista, non so se dettaglierà la composizione del consiglio, qui poi ne parlo poi di questo consiglio a 7 e 9 perché è il punto più controverso, che potrebbe anche essere dettagliato in seguito, o forse ci sarà. Poi ci saranno delle, questo è il problema vero, nel guida, però se ci sarà questa divisione dei canali RAI, un canale generalista, eccetera, ma queste cose non possono essere messe in disegno di legge sulla governance, secondo me, se si vuole approvarlo in tempi utili, perché se diventa una riforma della RAI che riguarda anche l'assetto delle reti, le news, eccetera, non credo che dal Parlamento se ne esca fuori prima almeno di un anno. E a quel punto non so, o si vuole prorogare l'attuale vertice per un anno, non credo sia questa intenzione di Renzi, ma per fare presto si fa un disegno di legge solo sulla governance e poi affrontare gli altri temi, fra cui forse quello più urgente è quello del canone, che sarà probabilmente anche nelle linee guida il canone, questo è il problema. Adesso bisogna capire le linee guida, poi come, in che magari si trasformano in due provvedimenti, uno sul canone e uno sulla governance. In uno solo Può essere, ma a quel punto mi sembra difficile approvarlo in tempo utile per giugno, per quando scade l'attuale vertice. Sì, non è una puntata sul canone, lo dico agli ascoltatori. È vero che l'Italia ha la RAI, la TV di Stato italiana, ha dei ricavi da canone che le altre TV di Stato degli altri paesi europei non hanno neanche lontanamente. La RAI ha ricavato nel 2013 1.750 milioni, in Germania la RAI tedesca ricava 215 milioni, in Gran Bretagna 174 milioni, in Francia 131. Ok, per quello che riguarda i canoni delle TV pubbliche in Europa. Scusa, quanto pagano di canone? Noi abbiamo un canone ben più alto. Detto ciò, Marco, perché dici si farà la governance e non si faranno la riforma dei canali? Perché la riforma dei canali sarà indicata probabilmente nelle linee guida, ma perché inserirla in un unico provvedimento? Il problema è il Parlamento, cioè in un unico provvedimento. Più il provvedimento ha temi sensibili, diciamo, è più difficile che venga approvato in tempi rapidi. L'obiettivo del governo è approvarlo entro giugno, massimo luglio, questo provvedimento sulla governance. In mezzo ci sono anche le elezioni regionali con la sospensione del Parlamento, questo, scusami, per 10 giorni. Questo tecnicamente, questo vuol dire tecnicamente che Gubitosi, che è l'attuale direttore generale, che è in scadenza da aprile, andrà fino a giugno? Perché se tu... No, non è in scadenza da aprile. Ad aprile approva il... Allora, ad aprile approva il bilancio, poi però la scadenza è quando l'azionista approva il bilancio, che è fine maggio. In realtà però il presidente adesso è nominato inizio luglio, quindi in realtà si può arrivare anche a giugno con l'attuale vertice. Dopodiché deve scattare o la proroga oppure bisogna nominarlo, dato che mi pare non si voglia nominare con la legge Gasparri, che è quella attuale. Bisogna approvare, diciamo, per metà luglio massimo il disegno di legge, che a quel punto una riforma della RAI entro luglio mi pare difficile. Forse la sua governance può passare, dipende poi ovviamente dai contenuti. Ho capito, quindi diciamo al massimo ti ci passa la riforma del Consiglio di Amministrazione. Sì. L'idea che ti convince, l'idea dei tre nominati dal Consiglio dei Ministri, tra cui anche l'amministratore delegato, tre dalle Camere in seduta comune e uno votato dai dipendenti RAI, cioè sarebbe una RAI meno legata ai partiti? No, non credo proprio che sia una, non mi convince, e non sarebbe sicuramente una RAI meno legata ai partiti, perché dal Parlamento e sulla Comune è comunque eletto comunque da un accordo tra i partiti che devono decidere tre a che area appartengono, eccetera. I tre del governo sono comunque nominati dal governo, il governo dirà nomino tre tecnici, ma comunque sono comunque nominati in un ambito politico come il governo, non certo all'esterno. L'unico sarebbe quello dei dipendenti, che fatto rischia di creare molti problemi, perché raggiungere un rappresentante dei dipendenti RAI fra tecnici e giornalisti non mi sembra facile. E comunque non rispetto anche alle sentenze della Corte Costituzionale, però, mi sembra, scusami, molto difficile che il governo possa nominare tre consiglieri d'amministrazione. Scusami Marco, ma in una battuta, perché stiamo chiudendo, ma allora che vantaggio avrebbe migliorativo questo CDA, questo nuovo consiglio d'amministrazione? Fatto così non vedo ben pochi vantaggi migliorativi io rispetto all'attuale. Cioè, ha più potere l'amministratore delegato, mentre oggi il direttore generale ha solo un potere di proposta, mentre probabilmente, ma questo deve essere specificato, e questa è una cosa interessante, l'ho scritto già oggi sul Sole, capire per esempio chi nomina i direttori delle nuove testate di queste newsroom. Li nomina direttamente l'amministratore delegato? Deve passare in consiglio? Chi nomina? E questo è interessante, perché oggi li nomina il consiglio e il direttore generale propone, probabilmente domani l'amministratore delegato può fare tutto da solo. Quindi l'unica vera novità sarebbero i maggiori poteri dell'amministratore delegato rispetto ad adesso, per dare un titolo. Grazie anche a Marco Mele, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.